In questo momento l'unica rilevanza strategica che ha il ponte è quella di essere appunto, di voler essere perlomeno il collegamento stabile dalla Sicilia e Calabria di cui nessuno di noi sente il bisogno. È stata tirata pure fuori questa idea di fargli avere anche una valenza strategica dal punto di vista militare, dicendo che con la situazione che si sta creando sarebbe stato molto utile per far muovere le truppe di terra, ma la realtà delle cose non è così semplice come la dipingono. Ci sono alti vertici militari proprio a livello mondiale che hanno dichiarato che nel momento in cui dovesse essere costruito il ponte diventerebbe un obiettivo militare sensibilissimo e lo abbiamo visto in tutte le guerre. Non c'è bisogno qua di stare a spiegare perché sarebbe il primo obiettivo che potrebbe saltare, dato che comunque c'è anche una certa vicinanza alla base di Sigonella, che è una delle più importanti del Mediterraneo. E questo, oltre appunto al pericolo per la città, comporterebbe una militarizzazione molto pesante proprio sul territorio cittadino, perché questo obiettivo sensibile andrebbe protetto, appunto. Però questa cosa è stata smontata ufficialmente quando è stato paventato di inserire questi quasi 14 miliardi che costerà il ponte nell'incremento del 5% delle spese militari famoso che chiedono gli Stati Uniti. Ma dagli Stati Uniti è arrivato subito un due di picche, come si suol dire, dicendogli che assolutamente non era una spesa che poteva rientrare. E diciamo da lì un pochino la cosa è andata scemando. Però quello che a noi salta invece molto all'occhio sono due cose. La prima è che questo era l'ennesimo tentativo in qualche modo di rendere utile agli occhi dei siciliani e dei calabresi quest'opera che in fondo è inutile. E poi che probabilmente inserirlo in un discorso militare in un momento in cui lo vediamo più o meno dal 2020, la propaganda militare in Europa e quindi anche in Italia cresce esponenzialmente, era per loro molto producente, per noi invece era molto molto pericoloso continuare a propagandare quest'idea. Ma a questo, guarda, forse io aggiungerei un ultimo passaggio rispetto a una delle, diciamo, dei meccanismi di fondo con cui si è proceduto in questi ultimi mesi, soprattutto, no, dal 2023 ad oggi. Alla ripresa del progetto Ponte, che è stata quella di accelerare un sacco, diciamo, sotto ogni punto di vista le procedure, anche adducendo, no, motivazioni di interesse pubblico che in qualche modo erano sovraordinate alle procedure ordinarie. Ora, in questo artificio, che non è stato semplicemente un artificio retorico, ma anche procedurale utilizzato dal governo, l'aggancio, l'appiglio dell'interesse militare è servito ulteriormente, diciamo, appunto, a giustificare. Quindi, in qualche modo, quel paradosso, diciamo, è che non soltanto questo tipo di discorso è stato utilizzato sul piano retorico dal governo, ma è servito anche a eludere una serie di meccanismi di controllo che altrimenti probabilmente avrebbero allungato i tempi. In questo quadro resta infine da comprendere che cosa stia succedendo nei territori che sono investiti, che dovrebbero essere investiti in maniera più diretta dal ponte sullo stretto. L'inizio dei lavori è stato rimandato innumerevoli volte, ormai non si contano più. A Messina e in Calabria però gli effetti del ponte che non c'è si sono però già fatti sentire e anche in maniera piuttosto consistente. Noi non abbiamo mai pensato, non lo pensiamo adesso, non l'abbiamo mai pensato in passato, che il ponte, diciamo, come infrastruttura complessiva verrà mai realizzato nella sua interezza. Il punto non è questo, il punto è che il ponte per noi lo stanno realizzando da decenni, perché il ponte è un dispositivo politico attraverso il quale vengono rubate risorse ai territori e attraverso il quale viene fondamentalmente rubato il futuro. Il ponte tiene ostaggio non soltanto Messina, ma la Sicilia e tutto il sud da decenni attraverso una serie di meccanismi diversi. Per cui schiacciare il rapporto fra ponte e territorio semplicemente sull'apertura dei cantieri è un po' riduttivo da parte nostra, nel senso che il problema del ponte, diciamo, il modo in cui il ponte o il progetto del ponte si relaziona al territorio, lo vediamo in primo luogo rispetto a tutto quello che non è stato fatto in questi anni, aspettando il ponte, a quello che non è stato fatto per creare, in qualche modo, per alimentare la chimera e l'immaginario del ponte. Pensiamo, per esempio, che il traghettamento nello stretto, per gran parte, soprattutto il traghettamento ferroviario dei convogli ferroviari, utilizza una tecnologia che per la gran parte si rifà agli anni 70. Quindi, nel senso, abbiamo un sistema di traghettamenti elementi che, diciamo, ha contribuito a creare questo immaginario di un ponte che arriva e risolverà tutto. Il disinvestimento dello Stato, del pubblico nel traghettamento dello stretto, lasciando di fatto il monopolio ai privati, è un altro tassello di questa grande operazione. Ma ancora di più il fatto che, pensiamo oggi, per dire, no, il ponte di Salvini, quest'ultima fase del progetto del ponte, in cui ci sono 13 miliardi e mezzo pronti per essere utilizzati per il ponte e che vengono invece sottratti a tante altre priorità che interesserebbero il territorio. Quindi in questo senso, quando noi pensiamo a qual è il rapporto fra ponte e territorio, lo possiamo vedere nella rete idrica che disperde oltre il 50% dell'acqua che passa al suo interno, lo vediamo nella rete ospedaliera che non funziona e con gli ospedali che chiudono, cioè è lì che si vede il rapporto fra ponte e territorio, non semplicemente in un cantiere che apre o no.